Mailog. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti. Mi sono fatto trascinare, sono devastato, consapevole di aver fatto una cosa inqualificabile. Non sa spiegare, non trova le parole neanche quando parla con il suo avvocato, l'appuntato dei carabinieri di Firenze, accusato insieme a un collega di aver violentato due studentesse americane appena ventenni. Abbordate di notte durante l'intervento per una rissa e accompagnate a casa con l'auto di servizio. La mattina dopo la denuncia per stupro. Da 20 anni sono nell'arma e aiuto le persone anche correndo dei rischi. Non so perché mi sono fatto trascinare in questa situazione, ha detto al suo legale, il carabiniere che venerdì scorso ha cercato un avvocato difensore per andare volontariamente in procura e farsi interrogare. Riconosce ora l'orrore del gesto commesso, ma continua a parlare di rapporto consensuale. È la sua versione, molto diversa da quella delle ragazze. Non ho gridato perché erano armati, ha spiegato una delle due nella denuncia, e l'altra. Non ho chiesto aiuto, non ho gridato perché ho avuto paura e mi sentivo confusa. All'avvocato però il carabiniere avrebbe ribadito di non aver percepito nessuna contrarietà al rapporto sessuale. Non mi sembrava ubriaca, non barcollava, non puzzava di alcol, connetteva bene i discorsi. Ritorniamo, mio malgrado, ma visto che l'argomento l'avevamo approfondito, eravamo anche arrivati a un punto di tensione abbastanza forte qualche giorno fa quando parlammo dello stupro di Rimini. Ritorniamo in tema parlando del fattaccio di Firenze che vede coinvolti due carabinieri. Siccome il sottotitolo di questa trasmissione è il piacere del dubbio, qual è il mio dubbio sul quale vorrei confrontarmi con voi oggi? Qual è la relazione fra questi due fatti? Esiste una causa di relazione? Eppure guardate che sicuramente è stato l'argomento principe che ha appassionato sia i giornali sia ormai la lettura parallela della realtà attraverso i social. Non so se questa irrealtà nel assemblare comunque elementi di cronaca e trarne dei filoni narrativi che permettono alle persone di dire la loro è data dal fatto che oggi esiste non più un mandato di mediazione per cui le cose si leggono sui giornali e poi si discutono ai bar, si discutono in famiglia, si discutono nei circoli, nelle bocciofile, nelle assemblee. No, oggi ha lo stesso livello di rilevanza quello che può essere scritto attraverso i sistemi spontanei di intervento sul racconto del reale e i cosiddetti luoghi ufficiali. Tanto che il tweet di un politico diventa un elemento di forte censura sul suo operato, tale che fosse una dichiarazione pubblica. Riassumo, anche se non c'è bisogno, visto che non si è parlato d'altro in questi giorni, due fatti. A Rimini vengono stuprate in maniera crudele, violenta, particolarmente drammatica, una ragazza polacca e una trans sudamericana. Dopo qualche giorno vengono rintracciati e arrestati i colpevoli. Gli inquirenti stanno lavorando per capire bene le circostanze di un fatto che è innegabile, perché ci sono anche le telecamere che hanno ripreso il fatto. Noi abbiamo in qualche maniera riflettuto sul fatto che su questo stupro erano stati pubblicati i particolari intimi, i referti medico-legali relativi al tipo di violenza, operazione totalmente superflua, totalmente inutile, che tendeva a creare ancora di più un clima discriminatorio nei confronti in generale degli immigrati, visto che queste quattro persone erano quattro nordafricani. Tutti gli immigrati devono andarsene, tutti gli immigrati sono dei potenziali stupratori, stuprano più gli immigrati che gli italiani, questo era il tema. Qualche giorno a seguire sembra che improvvisamente, per una sorta di legge del contrappasso, di necessario equilibrio, si è stabilita una circostanza speculare e opposta, che immediatamente ha fatto sì che si rinfocolassero i dibattiti attraverso i social. Due carabinieri vengono accusati di stupro da due studentesse americane a Firenze. I fatti sono svolti così: un venerdì sera c'è una rissa in una discoteca, intervengono i carabinieri, le due ragazze che avevano probabilmente bevuto, chiedono di avere un taxi per essere riaccompagnata a casa, il taxi non c'è, i due carabinieri riaccompagnano con l'auto di servizio le ragazze a casa, avviene un doppio rapporto sessuale con entrambe le ragazze, pare uno consumato all'ascensore e l'altro a casa. Le ragazze, quando si riprendono il giorno dopo, denunciano per stupro i carabinieri. un carabiniere si è già consegnato, si è già volontariamente presentato e ha detto: sì, ho avuto un rapporto sessuale con questa ragazza, avete sentito, non mi sembrava ubriaca, mi sembrava consenziente. Detto questo, naturalmente scatterà una censura disciplinare nei confronti dei carabinieri, non si può far salire dei civili su un'auto di servizio, non si può seguire dei civili a casa loro, soprattutto non si possono avere rapporti sessuali o di qualunque tipo con donne durante il servizio, non si può comunque, e qua entriamo in quella che dovrà essere l'accertamento, non si può approfittare del fatto che si sia carabiniere, si abbia una divisa, si abbia un'arma vicino di una ragazza, probabilmente potrebbe aver bevuto, e anche se ci sembra disponibile, che non chieda di meglio che essere posseduta dall'uomo dell'arma, non si può farlo, questo è contro ogni regola. Ma i carabinieri non hanno cercato assolutamente di affossare il fatto, i massimi vertici dell'arma hanno subito preso le distanze, questi due non saranno comunque mai più carabinieri probabilmente, poi si dovrà capire esattamente quali sono i termini di questa azione. Improvvisamente guardate che questi due episodi sono diventati rappresentativi di due categorie totalmente antitetiche. Da una parte i cattivissimi immigrati fra i più cattivi dei cattivi, addirittura marocchini, che nel nostro immaginario nazionale corrispondono comunque a un'azione reale, concreta, storicamente accertata di stupro collettivo, quasi punitivo da parte dei liberatori dell'Italia, una macchia nerissima della nostra storia. Una ragazza polacca, probabilmente residuo del tramonto, dell'eclissi del grande impero del socialismo reale, e l'altro ancora peggio, vogliamo mettere le categorie che nella pubblica decenza vengono considerate innominabili. Una trans, quindi un uomo che ha rinunciato alla sua virilità e è diventato donna, sudamericana, proprio gli stereotipi più stereotipi. E dall'altra parte i carabinieri, il simbolo integerrimo della nostra compattezza nazionale, due ragazze americane, il simbolo più rappresentativo dell'opulenza, della intoccabilità, della libertà e via dicendo. Secondo voi quali sono i punti in comune fra questi due fatti? Ci sono dei punti in comune? 800240024 e andiamo al racconto. Ero solo riuscito a vederla appena per un momento, ma forse proprio per questo mi sembrò che quella donna avesse il viso di una fata. E allora pensai che avrei preferito 100 volte prendermi lei. Piuttosto che uccidere e derubare suo marito, anche se era un ricco samurai. Col viso improvvisamente bianco, mi guardò fisso. Era diventata come una statua fatta di ghiaccio. E allora mi venne un'invidia, un odio feroce per quell'uomo. Farglielo vedere tutto legato a quell'albero in un modo vergognoso. Quest'idea, che prima non me era passata per la testa, mi colpì come una saetta. Questa è la storia di un bandito che dice di aver legato un samurai, di avergli violentato la moglie e poi aver ucciso lui, e la donna nel frattempo è scappata. Questo è un delitto che si è consumato, un delitto che ha delle attinenze con quello che abbiamo raccontato. Anche nel caso di Rimini, il fidanzato della ragazza polacca è stato picchiato, malmenato, anche lì ci sono punti in comune. Rashomon è un famoso film del grande Akira Kurosawa degli anni 50, un film bianco e nero, lunghissimo, probabilmente noiosissimo per chi non ama quel genere di film, che è preso a sua volta da un racconto, Il Bosco di Akutagawa, che è una storia. Rashomon è una delle porte di accesso a Kyoto, una storia che vorrebbe rappresentare l'impossibilità di dare una definizione oggettiva a fatti particolarmente cruenti, anche ascoltando tutti i testimoni. È accaduto questo fatto, è stato legato un samurai, poi è stato ucciso, è stata violentata la moglie, ma nessuno sa esattamente come sono andate le cose. E in questo bosco piovoso di notte, alla presenza di un monaco, varie persone raccontano le varie vicende, le varie parti di questa vicenda. E ognuno darà una versione diversa. Questo vorrei questa mattina qualcuno mi chiamasse all'800240024, visto che il telefono latita e visto che l'approccio a questa vicenda non è l'approccio consueto. Patton, è quello fatto dicendo: allora sì, come vedo oggi i titoli, non bastano due pecore nere per far neri i carabinieri. Ecco, Renato Farina fa una difesa d'ufficio dei carabinieri quando nessuno ha mai pensato razionalmente e privo di ogni pregiudizio di mettere sotto accusa i carabinieri. Oppure d'altra parte, e quelli contenti, avete visto, non sono soltanto gli immigrati a violentare, anche i carabinieri, ciò che rappresenta il vertice, la compattezza nazionale. Vi sembrano onesti questi tipi di lettura? A me non sembrano affatto onesti. Sembra proprio come nel film di Kurosawa, Rashomon, che ognuno dice la sua versione perché è strumentale comunque al rafforzamento di un suo vago e labile e presupposto ideologico. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io volevo dire questo. Certamente un atto di questo tipo, indipendentemente, è comunque gravissimo. Certamente è molto, molto, molto più grave. No, specifichiamo, prima di fare la gerarchia delle gravità. Di cosa sta parlando lei innanzitutto? Della vicenda dei due carabinieri di Firenze? Sì, diciamo il rapporto tra le due cose che sono successe, sì. I carabinieri di Firenze e lo stupro che c'è stato. Ecco, secondo lei c'è un rapporto reale? È veramente speculare queste due vicende? Sondamente considerare come il bianco e il nero di una vicenda? Secondo me no. No, secondo me no, perché se uno commette un atto del genere comunque deprecabile, ma a livello privato, che una persona sia immigrata o meno, è sempre colpevole, ma ha un peso. Quando lo si commette con una divisa che rappresenta lo Stato italiano, è estremamente più grave. Allora, proprio per far capire le differenze, i carabinieri comunque hanno sbagliato, perché non si prende un civile in macchina e non si accompagna a casa. Già quello sarebbe stato per loro oggetto di censura. Secondo, non si sale in divisa, non si lascia la macchina sotto con l'arma addosso e accompagnando due ragazze a casa, perché già un atto che non ha nulla a che fare con quello che è il ruolo di un tutore dell'ordine, che dovrebbe essere salvaguardia. Ammesso che loro fossero svenute in condizioni di non essere autosufficienti, avrebbe dovuto far intervenire qualcun altro, chiamare un'ambulanza, fare venire un'altra macchina. Non sta loro accompagnarle a casa. Non è la... Terza cosa, l'atto sessuale c'è stato, ancora di più un carabiniere durante il suo servizio non ha rapporti sessuali con persone. Ultimo elemento, le finisco. Ultimo elemento: se le ragazze veramente sono state ubriache o sono state in condizioni di soggezione, comunque un reato, guardi che il nostro codice dice che è punibile con la reclusione da 5 a 10 anni, dice è equivalente alla violenza sessuale, anche che è alla stessa pena a cui, che viene appunto attribuita a uno che compie una violenza sessuale, ce l'ha anche chi compie atti sessuali abusando le condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, traendo in inganno la persona offesa per essersi colpevole sostituito ad altra persona. Questo è un altro caso, però quando uno abusa del suo fatto, una persona in divisa con una pistola accanto non può comunque avere un atto sessuale, soprattutto se una divisa con una persona, ammesso che sia lucidissima, come ha detto il carabiniere. Scusi, c'è anche una cosa peggiore, c'è il fatto che queste due ragazze si sono fidate delle forze dell'ordine. Assolutamente, certo, sì. Mentre invece da liberi cittadini è un altro discorso, per cui se si danno 10 anni a un libero cittadino, se ne danno 20 a un rappresentante. A quello ci penseranno i tribunali. Però visto che vorrei cominciare a capire con lei. Ancora una volta stiamo costruendo realtà parallele basate sulla nostra impressione, proprio come Rashomon, qui ha parlato, il primo a parlare addirittura era il bandito, che dice esattamente come è andata la cosa, ma poi ci sarà una fase successiva in cui, lo sentiremo, viene evocato lo spirito del samurai ucciso, che dà ancora un'altra versione rispetto a quella della persona che l'ha ucciso. Quindi, come vede, è molto difficile avere una visione serena e oggettiva della verità. Ascoltiamolo. Quando ebbe finito di contaminare mia moglie, prese a cercare di convincerla a rimanere per sempre con lui. Mia moglie ascoltava avvilita in ginocchio sulle foglie cadute con gli occhi bassi. Il brigante le parlò con molta astuzia. Oramai, dopo quello che era successo, non avrebbe più potuto riunirsi al marito. E allora, perché non accettare le sue proposte di diventare sua moglie? Lui aveva agito in quel modo perché lei gli era piaciuta e non aveva potuto resistere. E la mia bella moglie, dinanzi a suo marito legato, che cosa rispose allora al brigante? Vengo con te, portami pure dovunque vuoi. Que- presto, rispose lei. Le chiedo uno sforzo, Giovanni, di uscire con metà della sua mente, da quella che è l'attualità, e entrare in questo racconto. Il samurai evocato, la voce del samurai morto evocato, dice, da una lettura ancora più tremenda e atroce dal suo punto di vista, dice: mia moglie, dopo che era stata violentata davanti ai miei occhi, ero legato lì a guardare, ha accettato l'offerta del brigante che l'ha stuprata di andare con lui. Pertanto, come avrebbe perso l'onore? Di fronte a me non avrebbe avuto più la faccia, e quindi ha accettato di andarsene con lo stupratore per non sopravvivere all'onta di essere stuprata davanti al marito. Aspetti un attimo, Giovanni, resti in linea perché devo dare la linea e interrompere un attimo. Poi vorrei ritornare alla luce della trasposizione poetica di fatti che nulla hanno di poetico, se non quando appartengono comunque al retaggio della storia e della letteratura, di vedere questi episodi che oggi vengono dati per reali, concreti e realmente correlati tra loro, quale impressione si è fatta lei? A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Melog, il piacere del dubbio. 800240024, oggi il dubbio che esprimo, e chiedo agli ascoltatori di aiutarmi a dipanare, se possibile, o darmi degli elementi, dare a me degli elementi di valutazione, riguardo ai due episodi che sono stati considerati simmetrici e speculari proprio in questi giorni: lo stupro di Rimini e la brutta storia di due carabinieri che hanno abusato di due ragazze americane ubriache, approfittando del loro momento di non capacità di gestirsi completamente, o comunque sia, comunque andata, comunque sarà accertato. Due carabinieri in divisa con l'arma a fianco sono saliti a casa due ragazze, ci hanno fatto l'amore, hanno comunque avuto con loro rapporto sessuale. Poi questo sarà accertato, cosa che non dovevano fare. Leggo qualche commento per farvi capire poi quali sono il polso, chiede un ascoltatore, Teresa Como: i maschi proprio non ci riescono a tenerselo nei pantaloni. Vediamo di uscire un po' dal luogo comune, che in realtà soffringe il luogo comune che già viene propinato in questi giorni dagli ufficiali organi di stampa e dalle letture sui social. Un'altra signora dice: Toni da Verona, mi auguro che il carabiniere non si tiri un colpo in testa, visto che è un bambino piccolo, da quello che hanno detto, e ha la moglie. Quindi la moglie, se ha moglie il bambino piccolo, che vuol dire? È più grave che fosse stato scapolo. Basta di queste letture sempre con questo codazzo clerical passionista. Ma cosa c'entra la moglie e il bambino piccolo? Se uno fa una stronzata la potrebbe fare anche se nella vita fosse solo single. Poi un'altra ancora di più, che affonda le radici fino in fondo nella melassa su cui siamo tutti cresciuti: i carabinieri sono sempre stati il Latin Lover e degli assidui corteggiatori. Basta ricordare qualche film con De Sica, che pensa Pane, Amore e Fantasia, in cui c'è De Sica che fa il vedovo maresciallo dei carabinieri e si innamora della bersagliera. Ma è un corteggiamento a distanza, in altri tempi, in un paesino dove era l'unico carabiniere, lui è un altro povero cretino. Gaetano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. No, io volevo dire che secondo me i due fatti sono abbastanza equivalenti. Ma in che senso? Me lo spieghi, perché posso darle anche ragione. Ma secondo me il problema oggi è che abbiamo scambiato la libertà, la nostra libertà, io dico sia per quanto riguarda le americane coinvolte, sia i carabinieri, sia gli extracomunitari che arrivano nel paese, con il permissivismo, cioè ognuno può fare ciò che vuole. Il nostro problema, secondo me, della nostra società in questo momento è che noi, forse anche dato dai media che amplificano alcune però stringiamo, cose, non diciamo cose vaghe, stringiamo su questo. Lei dice ognuno fa quello che vuole, quindi le americane, giustamente, come spesso accade, perché è un dato oggettivo, vengono in Italia, si ubriacano, bevono e poi fanno l'amore con le persone che incontrano. Sta benissimo, loro diritto a farlo. Esatto. I carabinieri forse sicuramente non si dovevano comportare assolutamente, ma questo è fuori da ogni regola di ingaggio. Esattamente, noi abbiamo adesso una cultura del permissivismo. Io ho due figli, uno di 26 e un altro. Sì, ma in questo caso dov'è il permissivismo? Il carabiniere pensava poteva permettersi di fare uno strappo alla regola. Esatto, adesso ci sono gli strappi alle regole. Io ho due figli, penso che possano... loro erano perfettamente consapevoli che rischiavano. Magari potrebbero averlo fatto altre volte, gli è andata bene, questa volta gli è andata malissimo. Esatto, io ho due figli e io penso che mio figlio o mia figlia possono essere anche loro vittime e carnefici. Cioè io ho questa sensazione che oggi tutto è permesso, perché c'è questo, sì, non ma, dico decadimento, però c'è questo tipo di... Edoardo, scusi, io so perché voglio in qualche maniera coltivarmi il mio pubblico, questa cosa potrebbe dirla su qualunque trasmissione, in questo specifico è diversa la domanda, e quali sono i punti, perché la mia idea che si giochi su un terreno doloroso e limaccioso come quello della violenza sessuale sulle donne, per portare avanti comunque dei portati di ordine politico ideologico, un pochino Edoardo, ma forse in buona fede lo sta facendo anche lei, cioè, vedi, questi due episodi fanno capire che oggi il mondo ci vorrebbe cosa? Più disciplina, più ordine, più regole. Il carabiniere le sa le regole sue, nessuno più di un carabiniere sa le sue regole, sapevano benissimo i carabinieri di fare una stronzata enorme, non pensavano che le due ragazze che dal loro punto di vista sbagliato, dalla loro valutazione erano così disponibili, che il giorno dopo quando si svegliavano un po' meno ubriache hanno detto oh, ieri ma ha fatto la festa a un carabiniere con la pistola vicino, ma siamo pazzi, e l'hanno denunciati. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io volevo parlare prima dei carabinieri. Allora, comportamento dei carabinieri ingiustificabile e non ci sono discussioni. Nessuno obiettato questo. Nessuna discussione. Perché se il tutore dell'ordine è il primo a non rispettare l'ordine, allora siamo allo sfascio. Secondo me quindi i fatti sono entrambi, alla base sono entrambi di gravità altissima. Il carabinieri... non c'è giustificazione. Il problema secondo me è un altro, purtroppo, visto che siamo in un paese dove regna un po' l'impunità, che i carabinieri con rapidità saranno radiati, congedati. Su questo non ci piove, faranno una punizione esemplare. Temo che per gli extracomunitari, non dico che vada nel dimenticatoio, ma ci sarà magari il PM un pochettino non credo che ci saranno, anche lì ci saranno molto attenti. È più facile che comunque sia fra qualche anno li vedremo tranquillamente in giro, questo può essere, su questo non potrei escluderlo perché ci sono episodi che è già accaduto, ma non perché sono extracomunitari, perché c'è un sistema generale per cui questo accade, questa è la differenza per lei, questo quindi è il punto in comune sul fatto che ci sarà punizione per i carabinieri e non certezza di punizione per gli stupratori di Rimini. Milena, buongiorno. Oh, Milena, lo sa che lei è la prima donna che chiama su questi argomenti. Mi fa piacere aver sentito tanti uomini, perché mi assicuro che sui social le donne sono state molto più cattive verso le ragazze. Ah, verso le due americane, figuriamoci, sì, sozze, briache, figuriamoci, sì, terribile. Esatto. Dovevano aspettarselo, eccetera, eccetera. Certo, non si può briacare. Per me qui il punto comune comunque è che certamente sono uomini che purtroppo non riescono a gestire questi tipi di pulsioni. Per la differenza, certo è che come madre oggi, se mia figlia dovesse essere soccorsa da un carabiniere, non sarei più sicura come ieri. L'unico guaio è che purtroppo queste due vicende su questo mi permette, Milena, sì. Io penso, dopo un fatto del genere, ammesso e non concesso che tutori dell'ordine, come probabilmente accade, non ci prendiamo in giro, ragazzi, tutori dell'ordine che hanno diciamo rapporti amichevoli con le prostitute per strada, fa parte non solo dei film e della letteratura, sì, della realtà, sì, ecco. Certo, qua però certo, non si trattava di due prostitute per strada che comunque danno dei contentini alla volante che passa per avere una maggiore protezione. Qua due ragazze nel lecito esercizio della loro libertà sessuale, di ubriacarsi e darla a chi gli piace, probabilmente. Che in quel caso, però, a un certo punto hanno capito che non era così. Forse non volevano in quel momento, se no non sarebbero state contente. Che bello, ci hanno fatti due carabinieri, tutte contente. La loro reazione forse è dovuta al fatto: dice, ma io proprio non ero convinta, non mandava questa cosa. C'è stato qualcosa che è andata sopra la mia volontà. E siccome non sono stupide, il giorno dopo hanno reagito. Io le dico, intanto l'arma ha fatto benissimo a dissociarsi immediatamente. Beh, vorrei vedere. Qui è un problema di sicurezza, beh, certo, ma qualcuno dubitava, qualcuno diceva aspettiamo a vedere le cose come sono andate, insomma almeno comunque hanno preso la distanza. Almeno questo. La violazione del regolamento, quella è palese, è stata confessata. Questi sono uomini che mi devono difendere dagli uomini che mi violentano. Ma figuriamoci. Quindi, insomma, comunque mi preoccupa questa cosa qui. Approfittarsi lei anche nell'equivoco che lei fosse consenziente, anche l'equivoco il problema è questo. Il problema è che probabilmente questi due episodi sono stati talmente ravvicinati che tutti si sono sentiti di addirittura politicizzarlo, cioè quella della sinistra che comunque ha voluto far vedere che anche i carabinieri possono commettere quelle cose, e questo è l'equivoco di base che vede, mi piace parlare con lei, che lei ha capito il senso. Sembra che le categorie siano così così manichee, così contrapposte. Da una parte il cattivissimo extracomunitario, da una parte l'integerrimo rappresentante del paese. Sembrava fatto un incastro perfetto. Sì, esatto. Esatto, io credo e voglio sperare che sia una semplice coincidenza, è possibile che sia strumentalizzata, assolutamente. E purtroppo abbiamo avuto un pessimo episodio, e io mi ricordo anche il caso Tyson, no? Quando la ragazza arrivò in stanza, anche lì io ho il diritto come donna di dirti qui ti devi fermare, non è perché tu sei più forte di me, devi approfittarne. Spero che passi questo messaggio, questo le volevo dire. E lei ha detto una cosa molto giusta che ha colpito come donna, che ancora non è emersa in questa trasmissione, che comunque sia delle due ragazze americane nessuno ne parla come vittime, comunque sia male che vada dovevano aspettarselo, perché non fai salire in camera un uomo quando sei un po' ubriaca. In questo caso, se i fatti sono così, comunque sia sono comunque delle vittime, perché il carabiniere non doveva salire con lei nell'ascensore, non doveva. Sentiamo Cinzia. Cinzia. Sì, Cinzia, l'ascolto. Niente, io mi riallaccio all'inizio del discorso che ha fatto un quarto d'ora fa, cioè che cosa c'è in comune tra queste cose? Sì. Secondo me, io mi riferisco non solo a questi due stupri, ma anche a quello che c'è stato settimana scorsa di quella signora di 81 anni sì. A Milano. Ecco, che la gente poi si dava di gomito, faceva le risatine, perché anche su quello, capito? No, io voglio dire questo. Ci ho pensato, no? Perché io penso, ma io ho 60 anni, no? E dico, allora che cosa faccio? Dove vado? Da sola? Ci penso adesso. Cioè io prima, per dire, prendevo la metropolitana, arrivavo alle 5 e mezza del pomeriggio, sono fuori Milano, è buio, vado nel parcheggio, non mi preoccupo. Invece mi rendo conto. Scusi Cinzia, ma pensava di essere indenne dal fatto che a 60 anni, comunque da una violenza fisica. Per questo, non credo che sia questo il punto. No, nel senso che ho un'esperienza, cioè nel senso che io ho un'esperienza sin da ragazza, io ho sempre abitato a Milano, sono sempre stata una persona molto libera, indipendente, la macchina è qui e là, cioè ho sempre fatto una vita abbastanza indipendente, non mi sono, sì ti ponevi il problema perché ci sono sempre stati gli stupri ovviamente, però io oggi dico questa signora, io mi riferisco anche a questa signora di 81 anni, mi fanno molto specie questi due carabinieri che sembra quasi che gli uomini non gli prevalga l'istinto, no? Rispetto a tutto quello che sono. Questo io dico. Cinzia, uno dei temi costanti di questa missione è proprio il fatto che avevamo l'illusione di essere civilizzati, la civilizzazione ci è costata molto, anche perché è stata una civilizzazione molto veloce, non creda, una generazione prima della nostra erano ancora dei genitori che pensavano che l'omicidio per causa d'onore fosse lecito, che il debito coniugale dovesse essere un'esigenza necessaria e via dicendo, quindi è stata veloce, il nostro passo antropologico è stato enorme rispetto ai nostri padri, però quando vede fatti del genere, vedi, ancora la civilizzazione che pensavamo è avvenuta un po' a macchia di leopardo. Ogni giorno ci portiamo la fatica di reprimere la parte animalesca che comunque fa parte della nostra natura. Altri invece non hanno fatto nessun passo avanti e pensano che in barba a tutti possono continuare a comportarsi come da sempre, dall'origine dell'umanità, si è comportato l'uomo. Solo un istante, ci fermiamo, ci sono molte telefonate. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presento. Melog. Il piacere del dubbio. La verità o la bugia, a me non importa niente. Ma la donna come ha raccontato il fatto? In un modo del tutto diverso da quello di Tajomaru. Quando ebbe fatto di me quel che voleva, quell'uomo disse con orgoglio di essere un brigante molto famoso. Tajomaru, e guardò ridendo mio marito legato all'albero. Poi sono svenuta e quando tornai a capire l'orrore che provai. Oh, Questa è la testimonianza della donna stuprata di Rashomon, che ricordo preso da un racconto di Akutagawa, che è un ragazzo che ha 23 anni, nel 1915 scrisse questo racconto da cui poi è stato ispirato il film, che era l'ambiguità della verità. La verità è ambigua quando è raccontata da tante persone e esiste uno strumento di accertamento alla verità. Guardate, era proprio il caso di una violenza, di uno stupro, che per quanto lo raccontano anche diretti testimoni, tanto non si riesce a capire come veramente sia accaduto il fatto. E noi pensiamo semplicemente, per quello che leggiamo nei social o nei titoli sparati dei giornali, poter avere un'opinione che sia in qualche maniera confortata da una lettura oggettiva. Mi stanno arrivando degli sms che testimoniano quello che è stato il martellamento folle su queste vicende. Siamo sicuri non sia una montatura per chiedere i danni dell'assicurazione? Le americane a Firenze hanno un'assicurazione antistupro, sì, perché è uscito su qualche titolo fra sabato e domenica, avevano un'assicurazione antistupro. Ora, può anche essere abbiano avuto un'assicurazione in cui fra i tanti danni contempla anche il fatto di essere stuprati, ma potete, perché già mi sembra difficilissimo, primo, spararlo in un titolo è infame, perché dire su un titolo avevano un'assicurazione antistupro vuol dire si sono inventate tutto, quando anche il carabiniere ha detto che il fatto è avvenuto, e il fatto comunque è avvenuto contro ogni regola che d'ingaggio dell'arma dei carabinieri, quindi non è così. Le americane faranno un bel gruzzolo, anche se si faranno ricche, pensate, saranno esposte a un processo di fronte al mondo in cui sono state hanno avuto un rapporto con degli uomini, hanno fatto salire a casa loro carabinieri su tutte le cronache, e si faranno un bel gruzzolo. Poi dice perché per le americane si è mosso il console subito la mattina, per gli altri non si saranno assolutamente. Poi la stupidata è stata portarle a casa con l'auto di servizio. Le americane stavano facendo la scena, cavalcando l'onda, hanno sedotto i carabinieri, non cercano di trarne i vantaggi, sono due zoccole, in ospedale hanno trovato segni di violenza, ma solo di un rapporto sessuale. Allora, per far capire, la signora che mi scrive questa cosa dice le americane sono due zoccole, può essere due americane, siano due ragazze che attribuiscono la loro intima d'azione a chi piffera loro pare, e questo può essere. Può essere che non hanno trovato segni di violenza, visto che piace tanto entrare nell'anatomia, ma può essere anche che non c'è stato un rapporto a calci, sputi, pugni e schiaffi. Può essere anche che semplicemente hanno avuto un rapporto sessuale di due persone ubriache, che in quel momento una nemmeno si ricordava, si è ricordata il giorno dopo. Comunque sia, è un atto di violenza, si sono approfittati di un momento di non capacità di gestire le proprie azioni. Andiamo avanti, abbiamo Marco, buongiorno, mi interessa. Marco, buongiorno. Buongiorno, guardi, volevo dirle già dall'inizio, iniziare con una cosa, però dato che lei in questo piccolo intermezzo ha detto altre cose, volevo citare i vari casi, sì, Meredith, sì. Il Cermis, il povero Callipari, non parliamo dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché altrimenti bisognerebbe aprire veramente una sequenza immane. Fatto cosa c'entra? Sì, ho capito, rapporti. Questo era un piccolo incidente, non c'entra nulla. Comunque poi per quanto riguarda invece il fatto in questione, io le devo dire che la voglio un po', ecco, non c'entrano, lei ha parlato di simmetria, di specularità, non c'è nulla a che vedere, sono due fatti completamente mi dà ragione però, perché io ho detto esattamente, io non vedo questa simmetria, voi ce la vedete? Le do ragione, io non ci vedo la simmetria, vedo una forzatura giornalistica di metterli in contatto fra loro, sono cose diverse secondo me. Ma lei ha parlato anche di codazzo clerical correct, però sì, a quelli che mi dicono che c'aveva il bambino e la moglie, non dice nulla. Ci si accoda perché sostanzialmente le cronache sono piene di fatti dove appartenenti alle forze dell'ordine sono appartenuti o hanno preso parte. Lei appartiene alle forze dell'ordine, mi sembra di capire. Io appartengo alle forze dell'ordine e le dico che ci sono poliziotti, carabinieri finanzieri che sono camorristi, sono assassini che spacciano. Ma anche un carabiniere stupratore seriale che è uscito proprio in questi giorni, accade, è normale che possa accadere, sì. Però perché non si fa una disquisizione, disquisisce su anche i fatti? Questo è un reato, no? Poi, anziché, io non lo giustifico assolutamente, ma è l'occasione che fa l'uomo ladro. Lei pensa che in Parlamento e in Senato non spariscono le penne, i cellulari, i tablet, sì, non ci siano denunce di furto? Sì, lei ha ragione, però guardi, come appartenente alle forze dell'ordine, da lei non mi aspetto un discorso di benaltrismo, figuriamoci. Noi, a voi che avete la divisa, avete un'arma accanto, diamo la massima fiducia solo per il fatto che vi vediamo. Non possiamo pensare, mi dite sì, però anche altri lo fanno. mi dà atto comunque che lei non farebbe mai una cosa del genere, perché sa benissimo che è antitetico al suo modo d'essere. Ma non voglio fare l'avvocato difensore dei carabinieri, perché sono è deplorevole. Ma no, ma è indifendibile, comunque sia indifendibile. Infatti è indifendibile, però quando parlo io di occasione che fa l'uomo ladro, nel senso, anche se è umanamente molto animalescamente, mi conceda questo termine, sì, no? Cioè loro si sono fatti una botta e via, cioè una botta rella, che sarà mai? No, va bene, c'è un reato, esiste, ma non voglio, cioè, mettere... Sì, carabinieri sono uomini, i carabinieri sono uomini... Ho capito, sono uomini, signor, caro, finisce per darvi, se no sembra che la censura, una botta e via e va bene così, non va bene, detto da un rappresentante delle forze dell'ordine. La botta e via ve la fate quando vi togliete la divisa, a casa vostra con chi vi pare. Alla prossima.